petali rossi attorno a me che luccicano, ritornando a vivere, si uniscono perché non sono più capaci di stare lontani. E allora, ripensandoci, non sei l'ultima realtà. Con basso sordo e libero non riesci più a turlare tutto il tuo dolore senza ribellarti. Resti nei tuoi occhi chiusi a perderti nel sogno di un istante da cui non riesci più ad uscire. Allora senti voci infinite. Voli immobili, splendide vesti avvolgono.